nuovo mixer digitale. Un misterioso fruscio sul canale 24. Voci e brandelli di notizie da una radio del domani. Questo è... Canale 24. Reportage dal futuro di Maurizio Melis. Bentrovati ancora una volta a Canale 24. La notizia del futuro di oggi ci riporta a fatti recenti. Sentiamo. Sul luogo della tragedia è intervenuto il primo nucleo robotico della Protezione Civile. Coordinati a distanza da una centrale operativa, anche grazie a un piccolo stormo di droni che sorvolano incessantemente il teatro delle operazioni, nei primi minuti di intervento i 50 robot specializzati nella ricerca e salvataggio di superstiti hanno estratto dai detriti della frana 7 persone vive, tra cui un bambino e una bambina, entrambi di 8 anni. Il progetto Reemergency, che prevede la messa in campo di altri 4 nuclei di primo intervento robotico, è fortemente contestato per via dei costi, saliti fino a 600 milioni di euro dai 400 previsti inizialmente. Nel corso della visita ai luoghi colpiti dalla calamità, il ministro dell'Ambiente ha dichiarato che alla luce dei risultati, si tratta per la precisione del 10° intervento andato a buon fine in 4 mesi, il finanziamento dell'operazione sarà confermato. Non cambia il punto di vista dell'opposizione, secondo cui tali risorse sarebbero meglio spese se destinate alla manutenzione del territorio e alla prevenzione. Immaginate dei robot capaci di captare i campi elettrici dei nostri muscoli come fanno gli squali oppure quelli dei nostri telefonini o ancora il calore del nostro corpo o anche solo quello del nostro alito. Immaginateli dotati di una forza sovrumana e capaci di agire con una rapidità straordinaria. Ebbene, organizzato dall'Agenzia per i Progetti di Difesa Avanzati degli Stati Uniti, dal 2012 il DARPA Robotic Challenge mette alla prova i migliori robot del mondo specializzati in operazioni di soccorso. Nel 2015 lo scenario in cui si è svolta la competizione è stato quello di Fukushima, con i robot impegnati a guidare automobili, muoversi su terreni sconnessi, rimuovere macerie, fare buchi nel muro, aprire e chiudere valvole. Droni e robot hanno già oggi, d'altronde, un ruolo nella gestione delle emergenze e saranno sempre più utilizzati in futuro in tutte le situazioni che comportano un rischio per le persone, ambienti contaminati, zone a rischio oppure estremamente impervi. E da decenni, dopo tutto, esplorano lo spazio per nostro conto e lavorano insieme a noi, non è una novità. Il processo di automazione è iniziato in pratica con la rivoluzione industriale ed allora prosegue ininterrotto. Oggi però sembra molto vicino a un salto di qualità, le cui conseguenze sociali e in particolare sul mondo del lavoro interrogano sempre più persone. Ne ho parlato con il direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, Roberto Cingolani. Sentite com'è andata. Attualmente il robot è un automa, automatizza e quindi può fare tante operazioni tutte uguali fra di loro rapidamente, per cui è ottimo, non so, in manifattura. Il robot di cui si parla però per il futuro è una macchina sociale, no? Quindi è una macchina che è in grado di interfacciarsi con l'essere umano, di riconoscere i gesti. Faccio un esempio banale, no? Quando noi diciamo a un essere umano mi dai quella bottiglia, la indichiamo, l'essere umano segue il dito, prende la bottiglia e te la dà. Fare questa cosa con un robot è difficilissimo, certo, perché bisogna insegnargli il gesto e la sintassi del gesto è diversa a seconda che a farla sia un giapponese che si muove in un certo modo o un italiano che gesticola molto, no? Ecco, allora ci sono delle cose di interazione, se vogliamo anche di empatia, di socializzazione, che per una macchina sono complesse. Un robot va da un punto all'altro e se c'è un ostacolo di mezzo mediamente lo travolge o si ferma. Un essere umano no, perché un essere umano è in grado di capire che c'è un ostacolo e quanto è duro e cosa deve fare. Sono tutte cose che vanno sviluppate per rendere il robot sociale. Uno studioso di questi fenomeni come David Autor ritiene che siano abbastanza complementari le capacità dell'uomo e del robot e che quindi vedremo molti casi di collaborazione. Sì, io sono abbastanza d'accordo sul fatto che ci sono tutta una serie di compiti che una macchina che abbia un minimo di requisiti sociali, cioè che abbia del tatto, della vista, che si comporti più o meno come noi, può sicuramente fare a fianco dell'essere umano, cioè il robot compagno in casa che può guidare la nostra macchina, aiutare la persona anziana, il bambino, tagliare l'erba, lavare i piatti. Trovo invece assolutamente fuori posto, fantascientifico, l'allarme, no, sul robot che impazzisce, perché in realtà noi proiettiamo sulla macchina il nostro ego, la nostra psicologia, le nostre paure. È come se noi avessimo paura che mentre io guardo la TV guarda me. La TV non mi guarda. Allora bisogna distinguere bene quello che è l'aiutante dell'essere umano dal personalizzare, cioè dargli un'anima. Questa cosa qui non esiste, credo sia appunto più una nostra proiezione sulla macchina che viceversa. Quindi diciamo in questo quadro complessivamente piuttosto positivo, ottimista, diciamo, quali sono le principali però criticità che lei si aspetta? Ma guardi, le criticità sono tantissime, si aprono delle potenzialità, però automaticamente sorgono delle criticità, no? C'è un problema di lavoro sicuramente, scompariranno dei lavori, però ne compariranno degli altri. Faccio un esempio banale, se pensi che un robot debba lavorare 13-14 ore al giorno per tanti giorni di seguito, è chiaro che un robot così non può fare il tagliando come un'automobile ogni 400 ore, no? Cioè noi siamo abituati a fare il tagliando dell'auto ogni 400 ore, che vuol dire una volta l'anno in media, ma se usassimo l'auto 12 ore al giorno, lo faremo ogni 10 giorni e nessuno vuole fare il tagliando ogni 10 giorni. Allora si aprono per esempio scenari di affidabilità, nuove forme di tecnologia di integrazione che probabilmente porteranno nuovi posti di lavoro che in parte andranno a compensare quelli che abbiamo perso, non so, per quello che fa il giardinaggio, che so, cose di questo tipo. Allora bisogna essere, a mio parere, molto franchi nell'analisi dei pro e dei contro di queste tecnologie, senza ideologizzarli. Ogni nuova tecnologia porta via dei posti di lavoro, ma ne apre di nuovi. Tutto sta ad avere la mente pronta a cogliere l'opportunità. Come è possibile che ci siano delle, da un lato si veda la possibilità di un'intelligenza artificiale, diciamo, più o meno forte tra mille anni, e dall'altro ci sia uno come Kurzweil che comunque, insomma, di intelligenza artificiale ne sa e parla del 2020. Ecco, dov'è il problema? Non parlate forse della stessa cosa? No, perché ci sono tanti livelli di intelligenza, diciamo. Se parliamo di uno strumento intelligente che guida l'automobile, che ci porta da un posto all'altro o che è in grado di rispondere in maniera sensata a domande, a comandi vocali, far certe cose, probabilmente l'orizzonte temporale può essere di un decennio o giù di lì. Se si parla di una macchina che veramente mettiamo sul piano dell'essere umano, quanta creatività, immaginazione, empatia, eccetera, ma io non credo nemmeno, secondo me non è nemmeno uno sensato farli mille anni, anche perché, detto fra di noi, se dobbiamo veramente fare un essere umano in tutto e per tutto, ci sono metodi semplici, piacevoli, testati dall'evoluzione, non ci abbiamo bisogno di farlo di conviti, bulloni e plastica, no? Insomma, Cingolani è ottimista e ci ricorda che i robot sono mezzi e come tali saranno buoni o cattivi a seconda del fine a cui saranno applicati. Tuttavia è difficile non pensare che in un contesto di capitalismo ultra competitivo quale quello attuale, molti sforzi andranno proprio nella direzione di eliminare uno dei fattori produttivi più difficili da gestire: l'essere umano. I robot non fanno sciopero, se si rompono basta ripararli o sostituirli, non dormono e una volta che hanno imparato a eseguire un compito non sbagliano. Ma quali lavori possiamo aspettarci che compiano i robot nei prossimi anni? Watson è un'intelligenza artificiale progettata dall'IBM per interagire e rispondere a domande poste in linguaggio naturale. Un computer diventato popolare nel 2011 per aver battuto in diretta TV i due ex campioni, Bran Rutter e Ken Jennings, di Jeopardy, gioco a quiz molto popolare negli Stati Uniti che richiede una cultura enciclopedica e delle buone abilità linguistiche. Watson è in grado di elaborare un'enorme mole di dati, si è nutrito di milioni di pagine di internet e ha assimilato milioni di tabelle di informazioni. Non capisce davvero quello che gli si chiede, ma percorre con una velocità formidabile la sua memoria, seguendo più strade alternative, cioè eseguendo più algoritmi contemporaneamente alla ricerca di qualcosa che assomigli molto alla domanda del conduttore. Se più percorsi di ricerca portano allo stesso risultato, allora Watson è in grado di fornire una risposta. Per quanto estremamente complessa, si tratta dunque di un'analisi statistica. I progettisti di Watson non sostengono che Watson pensi. Tuttavia, tra gli obiettivi dichiarati di questi sistemi, vi sono le applicazioni di help desk, al posto di esseri umani in carne ed ossa. C'è una benna in un deposito di legna in Trentino Alto Adige, una grossa pala che serve ad alimentare una caldaia a biomassa. È speciale perché è dotata di una sua intelligenza. Dei sensori le permettono di determinare la qualità del legname, valutando parametri come umidità e contenuto di ceneri, e di scegliere il più adatto a seconda del regime di funzionamento della caldaia. La benna analizza la materia prima, crea mix ottimali e, diciamo, nel tempo libero riorganizza il magazzino. Le fabbriche del futuro saranno delle collezioni di tanti macchinari intelligenti come questo, capaci di parlarsi tra loro e così di organizzare autonomamente i processi produttivi, la logistica e, in prospettiva, persino la manutenzione. Presto avremo sempre più auto, treni, aerei che si guidano da soli. Sistemi informatici e robot stanno sostituendo il personale dei supermercati alle casse e più lentamente nei magazzini e nella logistica. E come abbiamo appena visto, anche gli operatori del call center potrebbero essere sostituiti da computer in un futuro molto prossimo. Sono solo alcuni esempi. L'elenco è lunghissimo e continua ad allungarsi. Secondo un rapporto presentato congiuntamente dall'Università di Oxford e da Deloitte, 10 milioni di posti di lavoro lavoro, circa un terzo del totale, salteranno da qui al 2030 in Inghilterra a causa dell'automazione. A fronte di ciò, la speranza è che si creino altrettanti nuovi posti di lavoro che oggi non esistono. Abbiamo chiesto a David Autor del MIT di Boston, i cui studi si concentrano sulle conseguenze che grandi cambiamenti hanno sul mercato del lavoro, quali saranno a quel punto le competenze professionali più richieste. Sentiamo. There are two sets of skills that are fundamental. Ci sono due ambiti di conoscenze a cui dobbiamo fare riferimento. Innanzitutto quelle umane, fondamentali, di base, che sono la flessibilità, la creatività, il problem solving, la comunicazione, la leadership, la capacità di scrivere in modo chiaro, analitico, testuale, le capacità sociali, la leadership. Poi ci sono le conoscenze specifiche che vengono applicate nell'ambito, per esempio, del diritto, della medicina, dell'ingegneria. Quello che deve essere fatto è prendere le competenze generali, la flessibilità, la creatività, e applicarle invece ad un lavoro specifico, in modo da poter essere, visto che sono flessibile e creativo ed empatico, anche un bravo medico, un bravo infermiere, una brava persona nell'interagire con gli altri. Questo vale per la medicina, vale per l'architettura, vale per tanti settori. Quindi l'istruzione ha proprio questo compito: creare delle competenze generali buone e trovare l'ambito specifico all'interno del quale possono essere applicate. And finding a specific domain to apply them in which they're valuable because they complement specific expertise. Insomma, l'avvento dei robot costringerà milioni di persone a sviluppare nuove competenze. Il fattore chiave di questa trasformazione sarà la velocità del cambiamento. Se tra 30 anni avremo a casa un robot che fa le pulizie e sbriga le faccende domestiche, tutto bene, ma se questo dovesse accadere tra 3 anni avremo milioni di persone senza lavoro. Cosa possiamo dire a questo proposito? Ray Kurzweil, che è uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale, padre degli algoritmi alla base dello stesso Watson e di sistemi come Siri, che permettono di dare comandi vocali agli smartphone, ritiene che tra pochi anni saremo in grado di simulare la complessità del cervello umano abbastanza da riprodurne le funzioni cognitive. E prevede anche che la potenza di calcolo necessaria per farlo nel 2020 costerà solo $1,000. Il fisico Stephen Hawking ha invece pronosticato il rischio di una rivolta delle macchine, stile Terminator, ma questo tra 1.000 e 10.000 anni. La maggior parte degli esperti di intelligenza artificiale evita proprio di fare previsioni. In buona sostanza, alla domanda cruciale non abbiamo una risposta. Né chi forse di questi temi si dovrebbe interessare, come per esempio la politica, sembra minimamente impegnato a cercarne una. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima.